Ecco, noi Mazzino Montinari, uno dei curatori dell'iniziativa, cosa hanno in comune Ulisse, Don Milani, i matti, gli zombie e i partigiani, per un secondo appuntamento del ciclo, il viaggio rivoluzionario dell'eroe, che sarà alla libreria Giuffà a Roma il 30 maggio con Vanessa Roghi, un incontro dal titolo Il ritorno dell'umanità rimossa. Mazzino, ben ritrovato. Grazie a te per la chiamata e quindi buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Ci racconti complessivamente di questo progetto? Allora, è un po' complicato raccontarlo in poche battute, però insomma ci provo. Questa iniziativa nasce da un gruppo di studio che ha una provenienza per lo più filosofica, erano gli anni 90 quando insomma, si cercava di riflettere intorno politicamente, anche da un punto di vista sociale, intorno alla guerra del Golfo, intorno alla caduta del muro di Berlino e quindi a nuovi scenari politici, sia locali, quindi italiani, che internazionali. E devo dire che questo gruppo, di cui faccio parte, insieme a Luca Cangianti, Fabio Ciabatti, Maurizio Marrone, Pierpaolo Ciccarelli e Gabriele Guerra, è tornato in qualche modo in azione in questi ultimi 2 anni. Abbiamo provato a riflettere sul nostro contemporaneo, sul nostro presente e cercando intorno a una figura, quella dell'eroe, di ragionare politicamente anche in questo senso, che cercando di capire che cosa significa oggi la figura dell'eroe, se esiste ancora, se c'è un popolo che lo vuole, sarebbe disposto a seguirlo, se è una figura invece insidiosa e quindi una figura che può essere legata a un termine che, insomma, che è di questi giorni abbastanza utilizzato, che è quello del populismo. Il ciclo comunque ne dà un'accezione rivoluzionaria. Sì, però appunto evidentemente quando si riflette sul presente l'accadere è sempre abbastanza incerto, no? Quindi può essere una cosa che ha un risvolto positivo, come può essere invece può essere una deriva negativa. Come gruppo ovviamente avevamo l'esigenza anche di confrontarci con altre idee, con altri testi. Poi il gruppo insomma nasce con l'idea di condividere delle letture, delle visioni, perché non è soltanto letteratura, non è soltanto saggistica, ma è anche cinema e anche altro, insomma, serie TV per esempio. Allora l'idea era anche quella di confrontarsi con altre realtà, quindi non è proprio l'idea, non è quella di presentare il libro o un'opera in senso classico, è anche il modo di confrontarsi e commerciare quindi le proprie idee con idee altrui. In questo caso abbiamo avuto il primo appuntamento sempre da Giuffà che dobbiamo ringraziare perché insomma lo fa gratuitamente e mette a disposizione il proprio spazio dando pieno appoggio all'iniziativa. Cioè, il primo appuntamento lo abbiamo già realizzato con Alberto Prunetti, autore di 108 metri. E lì l'eroe era l'eroe proletario, se vogliamo, l'eroe operaio, che è un po' il padre di Alberto, se conoscete insomma i libri suoi, Amianto e appunto 108 metri, poi sono Federico che hai già avuto Alberto come ospite. Sì, proprio per presentare 108 metri. Esatto. E poi adesso non riassumo ovviamente l'incontro che abbiamo avuto con Alberto, ma insomma la cosa interessante è stata proprio quella di cercare di capire oggi chi è il proletario, se c'è, se esiste e che cosa e come può lottare contro ciò che è ostile, che può essere il datore di lavoro, che può essere un sistema economico e via dicendo. E la seconda puntata avverrà appunto mercoledì, come hai già anticipato, la protagonista dell'incontro è Vanessa Roghi, che è autrice di saggi, tra cui l'ultimo libro che ci interessa, da cui prenderemo spunto, è quello di Don Milani, è quello su Don Milani e sulla scuola, che coinvolge anche autori come Tullio De Mauro, che si chiama La lettera sovversiva e Vito dalla testa. E non soltanto Don Milani, così tengo anche un po' il titolo su cosa c'entrano i pazzi Don Milani Minari, ma anche Basaglia, perché sappiamo che Vanessa Rudi sta lavorando adesso lavora per Rai 3 e il suo impegno in questo momento è proprio dedicato a un piccolo documentario, piccolo insomma, nel senso della durata, un documentario su Franco Basaglia e sulla omonima legge che ha 40 Senti, anni. come mai il titolo di questo secondo incontro, chiama in causa l'umanità rimossa? Ma perché non è, allora, perché da un lato ovviamente ci interessa una narrazione, quella di Vanessa, legata a figure cardine come possono essere quelle, come sono state quelle di Basaglia e quelle di Don Milani, no? Cioè l'idea, ovviamente, ecco, non è che faremo una presentazione appunto del suo lavoro in senso specifico, cioè non, ovviamente parleremo di Don Milani, ovviamente parleremo della scuola e di Basaglia, della legge Basaglia, però naturalmente a noi interessa più il discorso legato a figure che riescano a, in qualche modo a comprendere il presente e al tempo stesso ad allontanarsene, no? Perché poi l'idea è quella che l'eroe dovrebbe in un certo senso essere capace di essere interno al suo presente, quindi capire con chi ha a che fare e poi essere però contemporaneamente capace di allontanarsi da quel presente proprio per andare verso qualcosa di diverso, di nuovo e possibilmente di migliore. Però ovviamente le rivoluzioni non si fanno soltanto con l'eroe al singolare, è evidente che si devono fare anche con chi segue quell'eroe. In quel caso stiamo parlando appunto di un'umanità che molte volte è stata rimossa, quella di coloro che erano rinchiusi nei manicomi prima della legge Basaglia e di chi in quella scuola che Don Milani voleva non soltanto riformare ma rivoluzionare era in qualche modo escluso. E quindi l'oggetto del discorso non può prescindere anche dalle persone che hanno partecipato a quel momento. Per questo l'umanità rimossa, insomma. Sì. Spero di essere stato chiaro. Sì, Mazzino, mi spiegavi che questi primi due incontri sono una sorta di puntate pilota in vista dell'autunno e per un progetto più articolato. Ovviamente come tutti gli incontri, sai, qui bisognerebbe fare un discorso che riguarda anche competenze comuni che abbiamo rispetto al cinema, nel senso che molti degli appuntamenti culturali, chiamiamoli così, sono diventati in qualche modo degli eventi e si ragiona molto sulla logica dell'evento. Ecco, no, il tentativo, lo dico con insomma, tutta umiltà ovviamente, è quello di sperimentare anche delle forme di incontro che vadano un po' oltre l'evento. Per questo, per esempio, stiamo cercando anche di raccogliere una serie di scritti, di saggi su una rivista online, che è la rivista fondata insomma, e diretta da evangelisti, che si chiama Carmilla Online, e lì si trovano dei contributi e speriamo di arricchirli. E gli incontri, appunto, adesso erano in via anche quasi sperimentale per capire anche che tiro dare agli incontri, come formularli, come cercare anche di coinvolgere il pubblico, perché è chiaro che a noi interessa soprattutto anche un confronto con altre persone che si recano alla libreria e che intervengano poi all'incontro. Quindi l'idea è quella poi di articolare di organizzare altri incontri a partire insomma dalla nuova stagione in senso, come dire, quasi scolastico, quindi da ottobre, metà da settembre, inizio ottobre, e da lì poi continuare, insomma, ci sono delle idee in cantiere e sicuramente verranno percorse. Siamo molto interessati, per esempio, alla terminologia e al genere degli zombie, perché insomma, dentro la saga degli zombie ci sono tanti, tanti riferimenti che possono interessare questa riflessione sull'eroe, ma ci sono anche altre cose che ci interessano. Quindi adesso cercheremo intanto di portare come dire, in evidenza questa iniziativa in queste due, uno appunto un episodio è già stato realizzato, il secondo avverrà mercoledì e poi se ne riparlerà a ottobre. Io come link di riferimento ho messo l'evento Facebook, per questo secondo appuntamento. Ci sono altri riferimenti per saperne di No, più proprio sul ciclo? in questo momento siamo soltanto su una pagina Facebook, appunto, stiamo cercando sempre più di saldare le nostre iniziative con la rivista Carmina Online perché ci interessa anche riportare in forma scritta quello su cui stiamo lavorando. Poi vedremo insomma in seguito. Adesso per il momento esiste solo una pagina Facebook che fa riferimento a questo personaggio mitico che si chiama Anton Giulio Penego, di cui si sono perse le tracce circa 20 anni fa, e che però ha radunato questo gruppo che è ancora attivo. Benissimo. Allora, ricordiamo questo secondo appuntamento del ciclo Il viaggio rivoluzionario dell'eroe, sottotitolo Cosa hanno in comune Ulisse, Don Milani, Matti, gli zombie e i partigiani? E il titolo di questo secondo incontro è Il ritorno dell'umanità rimossa con Don Milani e Basaglia alla libreria Giuffà il 30 maggio con Vanessa Roghi. Mazzino, un abbraccio, ci risentiamo per le prossime novità. Certamente, e ovviamente sei invitato anche tu a partecipare all'incontro, non è che Benissimo. ci siamo così. Ciao. Ciao Federico.